Speciale, la politica nel tunnel. Buon pomeriggio da Vincenzo Miglietta e dalla postazione qui di Radio 24 a Montecitorio. E buon pomeriggio da Elisabetta Fiorito. Apriamo subito con una notizia poi smentita: la Lega più che altro, ma forse anche il PDL, non avrebbero visto di malocchio la candidatura, pensa un po' Vincenzo, del segretario PD Pierluigi Bersani. Subito però smentita dal vice segretario Enrico Letta: assolutamente nessun Bersani al Quirinale. Non si sarebbe trattato di una candidatura esplicita, quella per il Quirinale, ma non si era esclusa la figura del segretario PD, e poco fa Ignazio La Russa ha detto che invece la soluzione migliore sarebbe proprio quello di avere un altro anno napolitano, così potrebbe sciogliere le camere, non ci sarebbe più il semestre bianco. Ma intanto per la Lega, però, che è questa da quella a lanciare questa candidatura, sarebbe invece importantissimo formare prima il governo, e sentiamo quanto ti ha detto Massimo Bitonci, proprio della Lega Nord. Bersani ha ripetuto che l'esigenza del governo è un'esigenza che ha sentito da tutti quanti i movimenti e i partiti politici. Ovviamente nella forma si vedrà nei prossimi giorni, però per noi è importante che ci si renda conto che non ci si può più aspettare, che è un'esigenza che non può più essere prorogata. Ma c'è stata una battuta così sul suo nome, ma abbiamo insomma sorriso tutti su questa ipotesi che abbiamo letto tutti sui giornali. Però in realtà noi non abbiamo delle preclusioni, l'importante è che sia una persona di garanzia e magari che non sia rappresentante solamente di una parte politica. Queste dunque le parole di Massimo Bitonci, capogruppo al Senato della Lega Nord. Ricordiamo intanto ai nostri ascoltatori che è possibile inviare degli sms al 349-238-6666, quindi la candidatura di Bersani al Quirinale è durata praticamente poche ore, il tempo di una mattinata, è stata comunque una novità per oggi, così come una novità è anche il pranzo a Firenze tra il rottamatore e il rottamato, ovvero tra Matteo Renzi e Massimo D'Alema, anche per distendere il clima all'interno del partito. E D'Alema ha detto che è stato uno sbaglio l'esclusione di Renzi dai grandi elettori della Toscana e ha ribadito no a scissioni. Non la pensa così Gian Claudio Bressa? Sentiamo allora cosa ti ha detto Bressa. Ma mi sembra una scemenza assoluta questa cosa qua. Come tutti i consigli regionali hanno eletto secondo quella che è una prassi consolidata, normalmente tra i grandi elettori c'è il presidente della giunta, il presidente del consiglio e un membro dell'opposizione. Mi pare che sia avvenuto lo stesso anche in Toscana. Non vedo comunque come sia possibile immaginare che con gli immensi problemi che la segreteria nazionale del PD deve risolvere per fare il Presidente della Repubblica e fare il governo possa occuparsi della nomina di un grande elettore, seppur importante, come può essere quello che viene dalla Toscana. Mi sembrano veramente fantasie per riempire le pagine dei giornali quando non ci sono altre notizie. Ma Renzi che incontra D'Alema, il rottamatore che incontra il rottamato? Che cosa c'entra? Sono due personalità di questo paese e se si incontrano si vede che avranno qualche cosa da dirsi. Quindi c'è un nuovo clima di armonia nel Partito Democratico? Il Partito Democratico è l'armonia. Senta, ma che cosa ne pensa invece di questa agitazione del Movimento 5 Stelle di Occupy Montecitorio, lo potremmo chiamare così, prima l'aula, poi il mappamondo? Che hanno una confusione in testa veramente preoccupante. Non hanno capito che cos'è il Parlamento, oppure forse l'hanno capito e proprio perché l'hanno capito lo vogliono destrutturare. Ma è una cosa che lasciamo alla loro fantasia malata. E la Quirinale online, il fatto che si voti per un candidato alla Presidenza della Repubblica sul web? Come sopra, non hanno idea di che cosa sono le istituzioni. E sul fronte renziano invece si smentisce anche la possibile scissione del partito. Poi adesso hai visto, Renzi e D'Alema si incontrano, si parlano, vanno a pranzo insieme. E allora sentiamo quello che ti ha detto Ermete Realacci. No, non credo. Credo che bisogna ritrovare la maniera di parlare più del paese che dei fatti nostri, diciamo. Alcuni scivoloni ci sono di vecchie culture. Io per esempio non discuto su com'è nata, ma il fatto che il PD toscano abbia preferito un democostano di antico conio senese a Matteo Renzi come grande elettore per la Presidenza della Repubblica lo ritengo un errore politico, diciamo, Maso che è vivo e lotta insieme a noi, no? non è così che si parla al paese, però diciamo, al di là di questo, credo che il problema principale è ritrovare una sintonia con il paese che ci consenta anche di affrontare il problema che abbiamo davanti come partito, che è, oltre a quello che fare l'interesse dell'Italia, capire perché abbiamo perso le elezioni. Senta, ma qualcuno riproverà a Renzi l'inopportunità comunque delle sue uscite in questi giorni, sia laddove dice torniamo al voto, sia su questa polemica sul grande elettore? Ma guardi, sulla questione, semmai si può dire che Renzi ha una sua capacità di entrare in sintonia con il paese che è fin troppo facile, però è vero, diciamo, che c'è una domanda nel paese di risposte da parte della politica che noi non possiamo più far finta di che non esista, ecco. Queste dunque le parole di Realacci, un renziano, così come è una renziana Simona Bonafè, che dice: non ho il timore di scissioni e da parte nostra, se ci fosse la volontà di uscire, lo avremmo fatto dopo la sconfitta di Renzi alle primarie. Quindi sembrerebbe per il momento questo un capitolo chiuso. Sul fronte del Popolo della Libertà invece si continua a parlare di governissimo oppure si minacciano le urne. Sentiamo allora Daniele Capezzone. Non è accettabile che dopo 45 giorni Bersani blocchi il paese, impedisca di avere un governo nel momento in cui crescono i licenziamenti, nel momento in cui gli italiani sono bombardati di tasse, nel momento in cui le imprese chiudono. O accetta la nostra proposta di un governo condiviso, oppure ridiamo subito la parola agli italiani. Fermento nel Movimento 5 Stelle per le Quirinarie online, lanciate oggi sul web, e c'è stata poi una gaffa smentita dal capogruppo Roberta Lombardi alla Camera sul capo dello Stato Giorgio Napolitano. Lei avrebbe detto che era ora che facesse il nonno, però poi ha spiegato tutto sullo streaming del Movimento, che sentiremo. Streaming non è ancora molto tecnicamente perfetto, il web e la tecnologia. Allora ho incontrato un grillino e mi ha detto: ma dobbiamo fare la banda larga invece che la TAV. Ma comunque sentiamo la Lombardi. Secondo Repubblica io avrei detto: Napoleone, vada a fare il nonno. La cosa è andata così, che eravamo fuori alla sala del Mappamondo, per i motivi che poi spiegheremo, per le commissioni, e c'erano tutti i giornalisti che erano molto interessati a sapere perché eravamo lì, eccetera, eccetera, e poi hanno iniziato a parlare del fatto dell'elezione del Presidente della Repubblica. Hanno fatto tutta una serie di nomi, facendomeli commentare, e poi hanno detto: se Napolitano si ripresentasse. E io ho detto: guardate che nei due incontri che ho fatto con Napolitano, lui ha detto, e l'ho anche visto, di essere stanco e che voleva godersi la sua vecchiaia e fare il nonno, godersi i nipotini. Queste le parole della Lombardi in streaming. Intanto ancora un'occupazione, o presunta tale, come abbiamo sentito da parte del Movimento 5 Stelle, dell'aula del Mappamondo qui a Montecitorio, ma Alfonso Bonafede smentisce sia un'occupazione. Sentiamo il deputato 5 Stelle. Non stiamo occupando nulla, stiamo semplicemente assistendo ai lavori della Commissione Speciale, in perfetto rispetto dei regolamenti parlamentari che danno a ogni deputato la possibilità di assistere ai lavori delle commissioni. Ci siamo impegnati, stiamo cercando di fare di tutto perché partano le commissioni permanenti, non partono, e quindi almeno andiamo ad assistere ai lavori dell'unica commissione esistente. Ma non è che fate questi gesti perché vi sentite un po' in colpa che non avete fatto partire il governo con Bersani? Allora dovete far vedere che lavorate. Assolutamente no, ci sembra abbastanza controtendenza che tutti urlino e invochino la necessità di un governo, o comunque la necessità per l'Italia di fare in fretta, e poi proprio quegli strumenti che possono partire vengono invece bloccati dietro giustificazioni che sono palesemente pretestuose. Ma come spiegate a un vecchietto come votare per le Quirinalie online? Ma guardi che in Italia le persone un po' più avanti con l'età non hanno difficoltà a connettersi online. Se ci si connette al blog di beppegrillo.it, dove c'è la possibilità, poi si accede nella finestra proprio deputata e dedicata al Movimento 5 Stelle, e lì si seguono le istruzioni per poter esprimere un nome. E questo era Alfonso Bonafede del Movimento 5 Stelle. Ricordiamo, Bersani frena sulla sua candidatura al Colle. I Colli mi interessano, quelli piacentini, ha detto il segretario PD. mentre D'Alema incontra Renzi a Firenze e dice un errore escluderlo per la votazione per il Presidente della Repubblica. Comunque no a scissioni, queste le parole di D'Alema, e per il momento è tutto. Un saluto da Vincenzo Miglietta e un saluto da Elisabetta Fiorito.